Hey, a Vitma! S-I-T-H. Devasto questo sistema mentre vaffanculo rimane il mio emblema, yeah. Aspetti una sfida e ti fracasso, e sinceramente man mi sei caduto in basso, e spacco ogni pago che calco, e faccio il peggio disastro. Dopo questo pezzo mi aspetto una denuncia, ma è come il dopo fra, benvenuti nella giungla. Inizia la festa e muovi la testa e qua te la si spezza. Io ho più stile, ma quanto, ma come Jovanotti, tanto. Farete 7 giorni su 7, vi mettiamo alle strette, vi facciamo a fette, commette, non ammette, vogliamo panette. Con questo rap noi scaliamo le vette, chiudi i miei pensieri dentro quattro mura. Sappiamo fra che di me hai paura. Dopo tutto, che cosa hai concluso? Il fatto bro è che rimani un illuso. Datemi un beat fra e vi stendo. Ti piacciono le scarpe, te le porto di cemento. E sento, risento ogni tuo commento. Troppe parolacce ma faccio sempre 100. Ti porto e ti sfondo in un lasso di tempo. Andrei sottoterra in ogni momento. Non sono come te, io rimango sempre vero. Io non sono come te, io rimango sempre vero. E scrivo la storia di uno nato per strada, e guarda il cielo e pensa ancora alla sua fama. Ho una lista di minacce che neanche immagini. Potetevi che di alcol siete fradici. Non sono come te, mo sta a sedere e dici quattro cose ma neanche bene. Lo fai di una vita ma ancora non lo sento. Il tuo rap in fretta è stato una perdita di tempo. 2010, Remix Record. Search. Chica.